alle ti seguo. Ma che penso, a che aspiro e con chi parlo? Penso all'amor, parlo a Giustino, andiamo, momento in ciel. Questa mia destra Roma, io spegno rustiche e marre, al cor in bomba, già la tromba guerriera, il timpano feroce, udir già parmi. Giustino andiamo, alle vittorie, all'ordine.